dovremmo sai. Questo punto decidere dove si va. E dimmi poi se è vero o no che siamo qui come nuvole nel vento. E tu lo sai, nel mio cuore cosa sento. E forse tu stai già pensando a me. Lì, nella tua stanza, e forse domani un altro uomo per te diventerò. Dipingerò un cielo rosa, sarò per te quello che vuoi. L'amore lentamente già si posa sopra di noi. Dovremmo, sai, a questo punto decidere cosa si fa. Perché non c'è più niente oltre l'amore, più niente troverai. E allora dai, non esitare, dentro di me ci sei solo tu, e vibrano nel cuore sul mio piano le note blu.